Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Haircut, Courtier One, accordo volontario con le banche, aumento del fondo salva stati, sono tutte espressioni con le quali abbiamo preso confidenza da qualche settimana, che abbiamo tanto sentito ripetere nella giornata di ieri e che adesso iniziamo ormai a ricordare stabilmente. Non è altrettanto immediato avere un quadro chiaro di quello che sta succedendo nel nostro continente e al tempo stesso delle ripercussioni che ci sono state che potranno esserci sui nostri risparmi, sui nostri investimenti. Allora riprendiamo un po' il filo del discorso da quello che è successo nella notte tra mercoledì e giovedì, quando si è raggiunto il tanto atteso accordo europeo sul pacchetto di misure che dovrebbero portare il nostro continente ad uscire dalla crisi, punto interrogativo, o almeno a provarci con forza, e che è stato appunto brillantemente ieri premiato dalle borse. Ci sono state tante misure definite, non ancora siglate nei dettagli. Oggi ci concentreremo su alcune di queste, in particolar modo sul taglio del valore nominale delle obbligazioni greche che gli istituti bancari hanno acconsentito ad alzare fino al 50% rispetto al 21% inizialmente ipotizzato e definito. Questo taglio dovrebbe permettere alla Grecia di tornare a sostenere il suo debito, ma di conseguenza va a colpire anche chi detiene le obbligazioni elleniche. Tra questi molti risparmiatori, non ci sono solamente investitori qualificati come appunto banche o fondi pensione, investitori istituzionali. Domande e dubbi dei risparmiatori sorgono quindi spontanee. Cosa succederà? Verrà tutto sostenuto dalle banche o si corrono dei rischi? Oggi cerchiamo di dare una risposta a questi dubbi, cercando anche naturalmente di guardare oltre per capire cosa magari da qui a Natale potrà ulteriormente accadere sui mercati finanziari, se dovremo ancora abituarci a giornate di grande volatilità come quelle che ci hanno investito e che si sono riacutizzate dall'estate scorsa, e quindi insomma com'è il caso in questo momento di difendere anche il nostro patrimonio di investimento. Tanti gli interrogativi aperti, bentornato e grazie di essere con noi ad Emilio Franco, responsabile investimenti di Ubipra America SGR. Buona giornata. Buongiorno. Allora, 800 24 00 24, il numero verde che vi dà l'opportunità come sempre di interagire con noi, di rivolgerci le vostre domande in diretta. Se non volete chiamare potete scrivere al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. chiaramente della borsa di ieri abbiamo raccontato molto, tirando un sospiro di sollievo, perché come sapete il vertice del Consiglio europeo dell'altro giorno è stato lungo, è stato difficile e naturalmente sono visti anche alcuni coltelli volare, poi sono stati rimessi a posto, ma in ogni caso i momenti di tensione non sono mancati. E quello che però è stato raggiunto come accordo è bastato ieri appunto alle borse per poter ritrovare un po' di slancio. Questo slancio però oggi si riferma di nuovo. Ci sono tanti motivi. Parigi adesso scende dello 0,13%, Francoforte a più 0,20%, Londra a più 0,14%. Diciamo che per queste piazze abbiamo una seduta di consolidamento dei rialzi di ieri. Un po' diversa la situazione di Piazza Affari, che invece perde 1,5%, però oggi a Milano ci sono delle storie singole che hanno relativamente a che fare con il super accordo europeo e il mercato si concentra su queste. Tanto per cominciare, la Popolare di Milano che perde il 7%, è arrivata a perdere 10 punti finendo in asta di volatilità. Il titolo, che aveva già da tempo comunicato l'aumento di capitale necessario appunto per rafforzare gli standard patrimoniali, e quindi quello della Popolare di Milano, diciamo, ha relativamente a che fare con le richieste europee. E ecco, questo aumento di capitale parte lunedì, ma le condizioni comunicate al mercato appunto sono state giudicate troppo a sconto, per cui il titolo oggi appunto si adegua a questi livelli e perde pesantemente. In pratica vi do le due indicazioni principali di questa operazione: le nuove azioni offerte dal gruppo avranno il prezzo di 30 centesimi di euro, quindi con uno sconto del 40% rispetto alle quotazioni recenti. Il concambio è stato fissato a 138 nuove azioni per ogni 25 possedute. Poi scende molto la Galassia Fiat. Oggi qua che cosa è successo? In realtà anche questa discesa, i titoli SPA meno 7%, i titoli Industrial meno 1,91%, hanno delle ragioni che potremmo in qualche maniera definire tecniche. tematiche, se andiamo a guardare quanto succede sul listino minore, dove i titoli Fiat Industrial Privilegio sono in rialzo, pensate, del 35%, i titoli Fiat Industrial Risparmio più 31%, le Fiat Risparmio non convertibili più 18%, le Fiat Privilegio più 17,76%, il mercato che è impazzito? No, semplicemente questi titoli di rango inferiore, chiamiamoli così, verranno tutti quanti convertiti in titoli ordinari, per cui c'è questo effetto conversione che si fa sentire in questa maniera appunto in borsa. Speriamo di avervelo spiegato in maniera semplice, se non avete capito, a parte il caso Fiat, mi faccio spiegare qualcosa di più appunto da Emilio Franco tra poco. Allora, questi casi di borsa più evidenti oggi, vi dico anche i titoli con il segno più, perché naturalmente anche questi dobbiamo guardare. Oggi il lusso, va bene, Luxottica più 0,7, Tots più 0,7, bene anche Autogrill più 0,6 e Tenaris più 0,34. Intanto anche l'euro è ancora forte sul dollaro a 1,41,53. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi. Oggi parliamo di uno dei tanti provvedimenti, tra virgolette, presi nel super vertice di mercoledì e giovedì notte appunto dal Consiglio europeo. Ci focalizziamo sulla Grecia, poi andremo anche oltre, ma intanto sentiamo cosa succede ai detentori appunto di obbligazioni elleniche. Ieri mattina il vecchio continente si è svegliato con la notizia dell'accordo raggiunto in nottata e dopo lunghe trattative sul pacchetto di misure che dovrebbero salvare l'Europa dalla crisi e che vanno dall'allargamento del fondo salva stati alla ricapitalizzazione di oltre 90 banche. Le borse hanno reagito positivamente, mentre notizie e commenti iniziavano a rincorrersi. Non è immediato però comprendere il significato e le motivazioni di tutte le decisioni prese e molti cittadini si stanno già chiedendo quali conseguenze potranno avere queste scelte sulla sicurezza dei propri risparmi e investimenti. Al centro di queste preoccupazioni c'è soprattutto il valore nominale del debito greco. È stata raggiunta con gli istituti bancari privati l'intesa per un haircut del 50%. Una rinuncia che si definisce volontaria delle banche e che riduce di 100 miliardi l'indebitamento di Atene, rendendolo nuovamente sostenibile, come ha confermato anche il primo ministro Papandreou. Con il termine haircut si identifica una perdita che pesa su coloro che detengono il debito di uno Stato, in questo caso quello ellenico, di cui sono piene molte banche, in particolare quelle francesi, oltre che naturalmente a quelle greche che posseggono 40 miliardi di euro in titoli del proprio paese. Sono molti i dubbi che possono nascere in piccoli e grandi risparmiatori. Che valore ha la volontarietà di questo accordo e cosa succederà alle banche europee che dovranno vedersela con una consistente mancanza di capitale? Ma soprattutto cosa deve aspettarsi nel concreto chi detiene dei bond greci? 800240024, il numero verde per le vostre domande. Vedo già che ai centralini i vostri quesiti fioccano. 349-238-6666 invece il numero che vi consente di inviarci degli sms. Prima di entrare nella terra del Sirtaki, Emilio Franco, le chiedo un giudizio un po' di massima sull'accordo dell'altra notte, le chiedo se le è piaciuto, le chiedo se ritiene giustificato il brindisi che ieri la borsa ha fatto appunto in seguito all'accordo, o se ieri la borsa ha trovato solamente il miglior pretesto possibile per tornare a fare un grande shopping sul mercato, date le valutazioni di molte società che veramente erano ormai raso terra, per cui c'erano sicuramente anche delle buone occasioni d'acquisto per gli investitori professionali e non solo. Ma diciamo che il piano, il fatto che sia stato elaborato un piano e che i nostri politici, policy maker dell'area euro, dopo 18 mesi e 14 summit internazionali, siano riusciti in una maniera almeno diciamo formale a dare determinate risposte su temi fondamentali per il futuro dell'Unione monetaria e anche probabilmente dell'Unione politica dell'area euro, questo è l'aspetto più positivo. Non ci dimentichiamo che fino all'altro ieri pomeriggio sembrava che addirittura saltassero gli incontri già fissati e avevamo notizie di grossi dissapori tra i leader di paesi molto, molto importanti. Quindi indubbiamente le aspettative erano relativamente modeste, perché i nostri policy maker hanno saputo disattendere le speranze più volte, insomma 14 incontri. E posso anche aggiungere, oltre che disattendere le speranze, anche sottovalutare largamente la crisi greca? Assolutamente, assolutamente. Certamente l'entità della situazione, la gravità della situazione ha subito uno sviluppo determinato anche dalla sottovalutazione e dall'incapacità nei 13 meeting precedenti di dare risposte più ampie, più complessive. Però secondo noi qui finisce l'aspetto positivo, cioè che se non altro questi signori abbiamo saputo riconoscere che era necessario che si sedessero ad un tavolo e che trattassero in modo esplicito almeno 4 punti. Questi punti sono la ristrutturazione del debito greco, la governance, il futuro dell'unione monetaria dal punto di vista dell'assetto istituzionale, come gestire la crisi delle banche e in che modo rendere operativo quello che lei ha chiamato il fondo salva stati, che si chiama IFSF. E European Facility European Fund Stability Facility, tanto per raccontarlo anche ai nostri ascoltatori che non ne prenderanno invece mai confidenza con il termine completo, però chiamiamolo fondo salva stati, che è più facile. Ci inceppiamo sempre sì, quando IFSF, infatti lo dico molto lentamente apposta. Quindi diciamo, questi punti finalmente sono stati messi sul piatto come punti essenziali, perché noi purtroppo siamo in una trimurti di crisi in questo momento nell'area euro. Abbiamo una crisi istituzionale dell'area euro, abbiamo una crisi delle banche e una crisi del debito sovrano. Quindi se non altro si sono messi a parlare di questo. Poi in ogni scatolina che aveva la sua etichetta, crisi greca, istituzionale dell'area euro, crisi delle banche, fondo salva stati, purtroppo ci sembra che abbiano messo pochino. Hanno messo dei bigliettini che sono delle speranze o delle proposte di azione per il futuro. Però non ci sembra ancora che si possa dire che abbiamo raggiunto la soluzione complessiva e sistemica della crisi, perché tutti noi sappiamo che purtroppo la soluzione sistemica e complessiva della crisi non passa per l'ingegneria finanziaria, ma passa per una di queste due possibili strade: o un'evoluzione dell'Unione Europea e monetaria verso una forma di federalismo fiscale in cui c'è una condivisione del debito da parte di tutti gli stati, del debito pubblico da parte di tutti gli stati membri, che passa anche attraverso una cessione di sovranità, che è una cosa con molto la quale complessa. Fanno molta difficoltà ovviamente soprattutto gli stati che fanno sempre la voce forte, soprattutto i tedeschi, giusto per non fare nomi, nomi e cognomi. E oppure l'altra soluzione è una banca centrale europea che diventa quello che è la banca centrale americana negli Stati Uniti o la banca centrale inglese in Inghilterra, cioè in teoria un compratore di ultima istanza anche per gli stati, cioè la cosiddetta tra virgolette garanzia che di fronte ad eventualità imprevedibili e impreviste metta domanda sul mercato per titoli dello Stato. Queste due estreme soluzioni possono anche essere combinate in versioni diverse, Eurobond, però diciamo sono lontanissime dal pacchetto che oggi abbiamo visto. Quindi di positivo c'è che hanno messo sul piatto le scatoline che devono riempire, che sono la Grecia, la crisi istituzionale, le banche e il fondo salva stati. Adesso però devono mettere i contenuti, e quindi pensiamo che indubbiamente ci possa essere stata con questo intervento la possibilità per l'area euro di comprare un pochino di tempo, però direi specialmente la dinamica ciclica che abbiamo intorno rende urgentissimo che i contenuti arrivino e arrivino sostanza. Che quello che si è visto intanto alla borsa è bastato, adesso vedremo le successive prove dei fatti. Adesso ci fermiamo, abbiamo già la prima pausa, sono già pronti due ascoltatori, dottor Franco, che hanno titoli greci in portafoglio, per cui dovremo dare loro non un suggerimento di comportamento, perché è molto difficile, perché comunque anche i termini della ristrutturazione non li abbiamo ancora, quindi cercheremo di così un po' capire quello che potrebbe succedere ascoltando tra un attimo le riflessioni, le domande di Carla da Treviso, Walter da Bari. Ci fermiamo solo per pochi istanti. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, a diverse ore di distanza dal super accordo raggiunto in sede europea per trovare le soluzioni quantomeno tampone ma molto importanti per aggredire la crisi dell'eurozona e dell'eurodebito, oggi stiamo un po' facendo delle valutazioni sia sulla reazione del mercato delle ultime ore, ma anche su una delle conseguenze più importanti di questo accordo, cioè l'intesa con le banche private raggiunta su un taglio, un haircut si chiama in gergo finanziario, del 50% dei valori appunto dei titoli del debito greci che sono in portafoglio a molte banche appunto europee. Sono particolarmente esposte le banche francesi e quelle tedesche, una piccola porzione detenuta anche dalle banche italiane, ma quello che vogliamo cercare di capire intanto è come questo taglio, come questa ristrutturazione verrà effettuata, che impatto avrà questa ristrutturazione sui bilanci delle banche, più o meno l'abbiamo capito, ma soprattutto sui piccoli risparmiatori che in Italia stiamo scoprendo appunto hanno in portafoglio anche questi titoli. Allora stamattina con noi per aiutarci a capire a che punto siamo anche di questo tunnel, che ci sembra ancora ben lontano, appunto, di un percorso che ancora probabilmente non abbiamo terminato di compiere, e in attesa di vedere la luce, appunto, ancora ci dovremo passare diverse settimane, forse diversi mesi, forse anche qualche anno. Emilio Franco, responsabile investimenti di UBI per America SGR. Allora, sono indecisa se rifarle un'altra domanda o sentire subito gli ascoltatori. Abbiamo promesso la Grecia, cominciamo con la Grecia, poi andiamo anche ad un commento invece sull'aster e titoli di Stato di questa mattina, che è stata piuttosto esigente. Allora, Carla dalla provincia di Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Deborah e grazie. Gentilmente, volevo, appunto, detengo un titolo greco ancora acquistato nel 2006 e di obbligazione con scadenza a febbraio 2025. Appunto, devo aspettarmi una riduzione del rimborso del 50% al 2025? Sarò avvisata e quando? Se ci dà qualche consiglio... Ecco Carla, così tanto un po' immaginando che nella sua condizione si possano trovare in molti. Intanto nel 2006 Emilio Franco, diciamo, nessuno ipotizzava che oggi al ottobre 2011 avremmo parlato di una situazione di questo tipo, per cui in tutta tranquillità, Carla, magari in un portafoglio obbligazionario di titoli governativi europei ben diversificato, ha pensato di mettere anche una porzioncina greca, tra l'altro un titolo di lunghissima durata, da quello che capisco, 2006, scadenza 2025, quindi 20 anni, 19. Sì, diciamo, purtroppo anche per il tipo di lavoro che facciamo non ha molto valore dedicarsi ad analizzare perché sono state fatte delle scelte da noi come investitori, specialmente se sono, cioè, diciamo, ormai sono dati di fatto, quindi noi dobbiamo partire dal presupposto che questo ascoltatore, questa ascoltatrice ha questo titolo in portafoglio e dobbiamo cercare di capire che cosa possiamo fare ragionevolmente per il futuro. Ecco, come dicevo prima, c'è anche una scatoletta sul tavolo del summit con scritto ristrutturazione della Grecia. Hanno messo in questa scatoletta un foglietto dove c'è scritto che finalmente, insieme alle banche, in una mediazione molto difficile, si è deciso di tagliare il valore del debito detenuto dal settore privato, perché non sarà toccato il credito del Fondo Monetario Internazionale o della Banca Centrale Europea o i prestiti dell'Unione che sono stati concessi alla Grecia, ma il settore privato parteciperà con un taglio del 50%. Ecco, volevo precisare che nel consesso europeo, quando si parla di investitori privati, non si parla di piccoli risparmiatori, ma di banche, investitori istituzionali, fondi pensione e quant'altro. Poi c'è anche il privato privato, che è il retail, che è un'altra cosa. Però ecco, in quella sede lì, per privato si intendeva questo. Certamente, certamente. Quindi di fatto non conosciamo niente circa i dettagli di questo piano. Sappiamo che... Se non questa percentuale che spaventa un po'. Beh, purtroppo dobbiamo essere spaventati se deteniamo questi titoli, perché almeno questa percentuale è ragionevole che venga decurtata dal valore nominale del nostro titolo, del titolo di chi detiene la Grecia, e la forma tecnica con cui questa cosa avverrà al momento non è nota. Sappiamo che era stato dato un piano abbastanza dettagliato a luglio con un taglio, un haircut del 21% che da noi era stato subito valutato come insufficiente. Quel tipo di pacchetto di proposta proponeva la sostituzione dei titoli esistenti con titoli a scadenza molto più lunga e con dei tassi molto più bassi. Come è successo con l'Argentina, quindi un esempio di ristrutturazione molto recente ce l'abbiamo e molti purtroppo se lo ricordano anche molto bene. Quindi è ragionevole che succeda una cosa del genere, quindi si riceveranno dei titoli che hanno un valore attuale molto molto più basso del valore di oggi teorico del titolo, se la Grecia non fosse in difficoltà. Tra l'altro, dottor Franco, non l'ascoltatrice diceva verrò chiamata, allora come è stato fatto per l'Argentina? È chiaro che l'intermediario presso il quale è sottoscritto questo investimento ad un certo punto ti dovrà dare le condizioni della ristrutturazione del tuo debito, per cui è chiaro che ci sarà un'operazione, appunto, di concambio di titoli vecchi con quelli nuovi, per cui è chiaro, io immagino che possa succedere. Ma siccome gli ascoltatori sono rimasti scottati, alcuni di loro, con quello che è successo con i bond delle banche irlandesi che hanno subito la scorsa estate una ristrutturazione a loro completa insaputa, per cui magari se una documentazione non ci arriva, intanto cominciamo a sollecitare il nostro intermediario, il direttore di banca, piuttosto che il nostro promotore finanziario. Dopodiché vedremo se per questa operazione ci sarà maggior trasparenza rispetto a quella che ho citato un attimo fa. Io direi, a parte questi aspetti, diciamo, tecnici, operativi, sicuramente corretti, qui il punto è che la ristrutturazione del debito greco era ampiamente scontata dal mercato, quindi le quotazioni dei titoli delle obbligazioni greche scontavano in alcuni casi anche degli haircut maggiori di quelli di cui stiamo parlando oggi. Quindi qui il tema vero, secondo me, per un risparmiatore deve essere se vendere o meno oggi questi titoli. Perché? Perché comunque i prezzi di mercato riflettono una ristrutturazione dell'ordine di quel 50% di cui stiamo parlando, e il tema quindi vero diventa far cambiare questi titoli che ho in portafoglio con dei titoli nuovi che valgono il valore che oggi posso estrarre dalla vendita del titolo. Ha veramente senso? Ha senso tenere vincolato il portafoglio con una durata molto più lunga di quella che originariamente era stata pensata dall'investitore, con dei tassi molto più bassi, quando vendendo il titolo oggi si ricava esattamente lo stesso valore? E soprattutto si mette il cuore in pace, posso dire anche un'altra cosa? Ecco. Diciamo, tecnicamente qui il tema vero è capire se questa ristrutturazione della Grecia sia tale da portare la Grecia su un sentiero di finanza pubblica sostenibile. Qui abbiamo un paese che, se questa ristrutturazione va in porto nei termini vaghi che per adesso sappiamo, comunque nel 2020 avrà un rapporto debito-PIL del 120%. Vuol dire un rapporto debito-PIL che è quello dell'Italia oggi, e l'Italia purtroppo sappiamo è in una situazione abbastanza turbolenta. La Grecia è un paese che avrà per parecchi anni ancora un disavanzo primario, quindi non potrà di fatto accedere al mercato dei capitali, continuerà a essere finanziato dalla Troica, dall'Unione Europea, e dalle istituzioni, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario, dalle istituzioni contatto, pubbliche. Sì. Quindi, sapendo che al 2020 prevedere un debito pubblico greco al 120% dipende crucialmente dalle aspettative di crescita che sono inserite nei modelli degli economisti e dei policy maker che hanno contribuito a questa ristrutturazione. Quindi direi, se c'è un errore nella stima, probabilmente è un errore per eccesso, quindi è probabile che quel debito sia anche più alto, anche perché la crescita ci aspettiamo che sia molto molto bassa, negativa per qualche anno in Grecia per effetto dell'austerità e degli aggiustamenti. La nostra idea è che questa ristrutturazione potrebbe non mettere in sicurezza la Grecia, quindi potremmo vedere tra due anni un'altra ristrutturazione su questi nuovi titoli. Quindi ecco, diciamo, quello che farei io da buon padre di famiglia, posto che da investitore non abbiamo questi titoli in portafoglio nei nostri fondi, è quello di pensare seriamente a realizzare le perdite che sono già di fatto nei prezzi di mercato, e dimenticare un'esperienza che nasce dall'errore in media, non di questa ascoltatrice ma di molti, di concepire l'investimento solo guardando ad una dimensione e il rendimento. Perché io, Carla da Treviso, ci ha detto che ha comprato questo titolo nel 2006. Chi ha avuto invece la tentazione, e so che l'avete avuta in molti perché ce lo state scrivendo, di acquistare questi titoli in tempi più recenti, io peraltro pensavo che il mercato fosse più ingessato, che non desse molte opportunità di accedere appunto ai titoli greci, invece vedo che molti ci avete messo le mani, ovviamente attirati da questi rendimenti che erano schizzati all'impazzata, e adesso purtroppo ne paghiamo tutte quante le conseguenze. Peraltro, dottor Franco, lei ha detto voi non avete in portafoglio titoli greci. Quando avete deciso di non acquistare questi titoli su questo mercato? In quanto tempo fa avete avuto questo campanello d'allarme? L'ultimo anno, da 3 anni, da prima? Ma i nostri ultimi titoli greci in portafoglio sono stati venduti nei primi acquisti della BCE, credo a febbraio-marzo del 2010, ma già nel corso del 2009 avevamo ridotto complessivamente l'esposizione alla periferia dell'area euro. Ovviamente non abbiamo incluso gli italiani. No, l'Italia non la definivamo allora, non la definiamo ancora periferia, diciamo adesso, prendendo atto di una situazione un po' più complessa di quella che avremmo desiderato, l'Italia la possiamo declassare a semiperiferia, però diciamo noi nei nostri fondi comuni, nelle nostre scelte di investimento, tipicamente nel corso degli ultimi 2 anni e mezzo non abbiamo avuto titoli della periferia, quindi non abbiamo avuto neanche Portogallo, Irlanda, Spagna. Grecia, Spagna, se non per marginalissime esposizioni solamente di trading, ma stiamo parlando di 1-2 punti percentuali di fondi a gestione molto attiva. Invece abbiamo mantenuto un'esposizione abbastanza rilevante all'Italia, che pensavamo e che pensava ancora essere un debitore sostenibile, solvibile, anche se via via più fragile, specialmente in considerazione delle dinamiche cicliche che stiamo vivendo. Certo. Allora, la ristrutturazione del debito greco quanto peserà sulle banche, ma del loro destino ci interessa relativamente, beh, mica tanto, perché poi anche quello che succede alle banche ricade addosso anche ai piccoli clienti, ai consumatori, ai risparmiatori, e appunto il taglio del valore dei titoli greci, questa ristrutturazione appunto come dovrà essere gestita dai piccoli risparmiatori. Allora, noi abbiamo così stamattina voluto affrontare questo argomento nella piena consapevolezza del fatto che intanto la ristrutturazione probabilmente verrà effettuata con dinamiche diverse a seconda dei titoli considerati, perché ci sono appunto scadenze diversissime sul mercato. È chiaro, come per ogni paese, ogni economia fa delle richieste di finanziamento appunto con delle scadenze diverse, esattamente come succede al tesoro italiano, per cui magari questo 50% è ancora una percentuale complessiva che potrebbe avere in realtà delle potrebbe avere anche delle percentuali diverse a seconda dei titoli in considerazione. Quindi per adesso, diciamo, indicazioni precise a chi ci ascolta non ne possiamo dare, è inevitabile. L'unico suggerimento è di mantenere viva l'attenzione intorno all'evoluzione della questione, e poi quando avremo appunto dettagli in più cercheremo di essere anche noi più chiari. Comunque, piena consapevolezza del problema. Un altro ascoltatore, dottor Franco, che è questa mattina con noi, Emilio Franco, responsabile investimenti di UBI per America SGR. Adesso rapidissima vado anche agli ascoltatori in attesa. Ci chiede di fargli un po' di ABC di finanza e ci chiede in che cosa consiste l'operazione di ricapitalizzazione delle banche. Noi ne abbiamo parlato tante volte quando parliamo di aumento di capitale, che può riguardare la banca così come ogni altra società quotata appunto in borsa, ma anche non quotata. Ci facciamo delle trasmissioni appunto ad hoc, ma evidentemente a questo ascoltatore sono sfuggite, per cui le chiedo in un minuto e mezzo, non le posso dare di più perché poi ritorniamo alla Grecia, che cosa vuol dire quando una banca si ricapitalizza? Ma diciamo, in senso stretto, ricapitalizzare una banca significa aumentarne il patrimonio netto, i mezzi propri, quindi le risorse che appartengono agli azionisti. Una banca è diversa da un'attività industriale, non ha bisogno di patrimonio netto per comprare attivi industriali, macchinari, capannoni. Il capitale di una banca, così come per un'assicurazione, è una forma di garanzia nei confronti dei clienti della banca stessa. In particolar modo nel caso della banca, il cliente che va garantito e si deve sentire protetto è il depositante. È anche un po' il salvadanaio della banca per, come dire, affrontare situazioni devastanti come quelle che abbiamo visto negli ultimi anni. Assolutamente. Diciamo, il business più tradizionale della banca è fatto così: la banca raccoglie depositi dei propri clienti che si sentono tranquilli perché la banca è ben patrimonializzata, quindi ha dei mezzi propri che si manifestano ad esempio nel palazzo sede della banca, in altri attivi tangibili che esistono, e a fronte di questo presta soldi, quindi fa impieghi sulla differenza tra il tasso che riceve sugli attivi e il costo del finanziamento che paga ai depositanti. In maniera estremamente semplificata, la banca genera i suoi utili. Quindi ricapitalizzare una banca in senso stretto significa aumentare le risorse di patrimonio netto, di capitale proprio della banca, quindi aumentare le garanzie che la banca è in grado di offrire ai suoi clienti più importanti, più stabili, che sono i depositanti. Quindi, diciamo, tanto anche per tornare a fare degli esempi, i nuovi criteri di Basilea ci chiedevano il famoso Core Tier 1 al 7-7,5% delle banche. Adesso l'Europa diventa più severa al 9%. Che cosa indica questa percentuale? Ecco, io sono partito da quello che è ricapitalizzare una banca in senso stretto, cioè mettere i soldi nuovi in una banca. Qui purtroppo, nel piano che è uscito in questi giorni, di soldi nuovi nelle banche ne entreranno ben pochi. Quindi si fanno i titoli di giornale su 100 miliardi di euro che entrano nelle banche, ma poi pochissimi azionisti, privati o pubblici, metteranno soldi freschi a garanzia dei depositi. Il resto, in molti casi, verrà ottenuto attraverso un pochino di ginnastica sugli attivi, e in questo ambito rientra questo concetto di tier one, cioè come si misura la patrimonializzazione di una banca. Il modo più semplice di misurare questa patrimonializzazione è di prendere tutte le attività che ha la banca e di rapportarla al patrimonio netto. Tanto più alto è questo numero, tanto più alleva è la banca, quindi tanto è meno sicura. Nel corso degli anni i banchieri si sono inventati questo concetto che non tutti gli attivi sono uguali. Alcuni attivi, come gli avrebbe detto Orwell, sono più attivi degli altri. Cioè, in questo senso, sono meno rischiosi degli altri. Allora, nel calcolare la leva della banca, hanno detto questi signori, e hanno convinto i regolatori, e hanno convinto la normativa, non è giusto pesare ogni euro come ogni euro, perché se i soldi li presto a un poveraccio che vende gli hot dog in mezzo alla strada, certo, il rischio di questo prestito è di un certo tipo, ma se io i soldi li presto alla Grecia del 2006, il rischio non c'è e quindi il peso di quell'euro diventa zero e quindi non è da considerare leva. Quindi sono quasi pentita di averle fatto questa domanda, no, perché siamo veramente procedendo su un terreno complesso. È un concetto molto difficile, però quello che vuol dire è che la patrimonializzazione misurata come tier 1 è il rapporto tra, diciamo semplificando, il patrimonio netto e un totale degli attivi truccato, in senso buono del termine, cioè in cui non tutti gli euro vengono sommati, ma questi euro vengono pesati per il rischio degli attivi. Quindi il prestito fatto al venditore di hot dog vale un euro, magari un euro e mezzo, ma il prestito fatto allo Stato sovrano Italia vale zero. Quindi è un modo per misurare la leva delle banche. Bene, devo subito chiuderla perché infatti abbiamo 3 minuti di tempo e avevamo un sacco di grecia da affrontare, ma non ce la facciamo. Allora chiedo la domanda rapidissima. Chi scelgo? Walter da Bari in 10 secondi, grazie. Grazie a lei, buongiorno, sarò velocissimo. Faccio questa semplice considerazione. No, vada subito la domanda, Walter. Vado alla domanda, benissimo. Se l'aircut non è volontario e quindi viene imposto anche ai retail, non scatterebbe il default conclamato e quindi ICDS e quindi una serie di conseguenze disastrose per le banche che dovrebbero pagare chi si è assicurato contro il default? Quindi a mio avviso l'aircut sarà solo e soltanto volontario e coinvolgerà esclusivamente gli istituzionali. Grazie, grazie mille Walter. Magari ci metto dentro anche Lorenzo dalla provincia di Como, che la sua riflessione molto severa la deve fare in 10 secondi. Lorenzo, grazie. Pronto, buongiorno. La mia semplice considerazione era il fatto che tutto sommato sia gli investitori ufficiali che gli investitori più piccoli sapevano il rischio che andavano incontro. Soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, ci aggiungo, magari non prima. E poi un'altra cosa che mi dico, che comunque per l'uomo della strada, cioè questa propensione degli investitori istituzionali a rischio sembra un po' una, cioè come se il mercato sia impazzito, cioè ora ci si chiede ma c'è ancora il mercato? Lorenzo, chiudiamo qua. Allora Franco ha 60 secondi di tempo, non di più, anzi anche meno, 50. Allora la domanda è molto pertinente e attiene all'efficacia di assicurazioni che si chiamano credit default swap, che sono stati comprate e vendute sul debito greco, ma non solo. Per tutto il debito dell'area euro il valore di questi contratti di assicurazione è quasi $1 trilione, quindi stiamo parlando di numeri molto grossi. I nostri politici, la Banca Centrale Europea, vogliono che assolutamente una ristrutturazione così severa sia considerata volontaria. Però scriveva qualcuno oggi, sì, volontario, come quando al militare ti dicevano ci servono 3 volontari. Figuriamoci se le banche che hanno venduto intermediario questi titoli appunto non chiederanno il sacrificio anche, ovviamente. Oggettivamente non sappiamo se sia meglio che scattino o che non scattino i credit default swap. Perché se è vero che se non scattano chi li ha sulla Grecia perde soldi, però i valori sono modesti, è vero anche che siccome per esempio l'Italia è stata assicurata in maniera molto grossa, non fa scattare i CDS in un caso conclamato di ristrutturazione e di fallimento, vuol dire delegittimare interamente l'asset class e creare grossa instabilità potenziale. Benissimo, benissimo, non tanto, non ce la facciamo ad approfondire questo discorso. Franco, grazie per essere stato con noi, ci ritroviamo qua magari fra un paio di settimane se abbiamo qualche dettaglio in più sulla ristrutturazione greca. A lunedì. Grazie. We'll be right back.